Romano CC. Vabbè, perché sale così questo? Ah no, giusto, giusto. Bene oggi. Io beh, dolori, io anch'io questi giorni, ma sono reduce da un'influenza allucinante, ancora c'è un po' di mal di gola, il naso sembra che abbia terminato, la voce è ancora un po' rauca, ma comunque piano piano già sta passando, vai. Però questa pesantezza che hai nelle gambe, quella può essere nuovamente la circolazione del sangue, quindi datti una gaimada e cerca di rilassarti un po' con la sigaretta. Natalia, al posto della sigaretta, guardati qualche bel film porno, che fa meglio. Se bevi vino rosso, capito, invece di bere tequila. Ah, io già non bevo, E appunto non bevi, inizia a bere un bicchiere di vino rosso a pranzo e una cena, vedi che ti senti meglio. Ho comprato per bottone stamattina, vino rosso adesso, a cena me ne bevo un po'. Bevi un bicchiere di vino rosso, a patto non fa solo bene, aiuta la circolazione del sangue, fa bene. L'importante è non bere superalcolici, alcolici e tutte le fesserie che ci sono in circolazione. Io solo vino bevo, niente superalcolici, niente fesserie, solo un bel bicchiere di vino a pranzo, anche due, e a cena. Bello rosso, rospante, più pesante è, più forte è, meglio è, ormai ti darò mi prima. Paolaggio. Un bracone, questo è alcolizzato, mi c'è un fratto. Ogni giorno si beve una bottiglia di amaro. Ma questo tanto. E di quelli. Ma ci mancherebbe. Vabbè, chi siamo? Quanti siamo? Scusate, ero pronto a chiamare prima, ma niente. Adesso mi sto azzuffando col computer. Sto vedendo se funzionano i lettori, tutto il resto gliel'ho fatto. Che palle, guarda. Fa vedere il computer con me, come fa vedere con Gianfranco. Ciao, buonasera, Natalino, intanto a me. Quello che mi dici per me è arabo. Vai, Gianfranco. Sì, e cosa dovrà fare mai con questo computer? Adesso sto iniziando con la programmazione, che c'è un errore, l'avevo già risolta, però siccome sono anche, se permettete, un pochettino vecchietto, mi sono dimenticato com'era la soluzione, non me la ricordo più neanche a spararmi, e sono già due giorni cercando di trovare l'inghippo che mi sono dimenticato. Si tratta di una rivolta da 4 soldi, ma veramente ti fanno dannare. Vabbè, è tutto un Windows 10, che c'ha aggiornamenti a Google. Così è Marco. Meglia. No, io avevo questo computer fisso, non funzionante, perché a quanto pare era partita la scheda video, ha cominciato a dare le prime avvisaglie. Alla fine ho lasciato fermo un po' di tempo, per non dire 2 anni, poi ho cannibalizzato un altro computer, avevo una scheda video, mi pare uguale tipo, una Radeon 9002, gliel'ho piazzata, funziona, però dopo tanto tempo il browser non funziona più perché Google e Microsoft e tutta quella cozzaglia di gente hanno deciso di non supportare più il browser, non mi fa proprio navigare il browser. Firefox lo stesso, alla fine fra varie scelte ho trovato questo Keymeleon che mi naviga bene, mi apre tutto, mi apre foto, mi apre siti, mi apre YouTube, mi fa vedere i video. Keymeleon è una cosa di quelli, un browser di quelli a codice aperto, no? Poi l'antivirus era scaduto, non era più, siccome era gratuito non era più aggiornabile, allora anche quello niente. Ho dovuto trovare questo 360 Total Security gratuito che, giustamente essendo gratuito, fa poco però lo fa. Io ho messo anche un CD con antivirus, con virus, e me li ha riconosciuti, sì, praticamente tutti i Trojan, roba del genere. Poi c'era anche la roba da, per te roba di comune amministrazione, per me no. cambiato anche la pila, perché era proprio a 0,08 volte quella di mantenimento del bio, sono a CR 2023, infatti 2025. Adesso i CD ROM erano fermi da tanto tempo che non si aprono, li ho aperti con la graffetta, piano piano si stanno un po' mollando, dai, erano molto anchilosati, tutto lì. E quindi ho dovuto trovare un browser compatibile e un antivirus compatibile, perché molti browser mi dicevano che ci vuole, non so, questo computer, non, questo processore non usa un... questo SS2, il computer non aveva questa funzione, questa caratteristica, questa operazione SS2 e non mi funzionava, capito? Guarda, se me lo dicevi, questo di attiretti mi facevo dare qualche PC di quelli da buttare, ma solo li hanno già tutti buttati a gettito, lo facevo avere completo di tutto. Però li hanno già integrati, proprio sfasciati di brutto, sia lì con questa che muoio, sono fatti fuori più di una cinquantina, ma riprendi Natalì. Ah, Natalì non c'è. Ehi. E beh, come va? Tutto bene quel computer, ho messo un browser compatibile e un antivirus compatibile. Ah, sì, ho sentito. Io è che non mi sento bene. Oh. E ho fatto bene a non venire allora. Pensa che andando allo sciambo volevo depositarti il case e poi mamma mi ha messo fredda, me ne sono dimenticato. Vabbè, già c'era per un'altra volta, dai. Ehi, ehi. Ma cosa ti senti? Non mi sento bene, le gambe mi fanno male. Deve essere roba di circolazione. Ho capito, dai. Vabbè, dai, se non te la senti di parlare... già siamo qua, vabbè io poco sarò qua perché ho preso la cartuccia della stampante che era secco, cioè proprio era ai minimi termini, quindi devo cambiare le cartucce della stampante, devo installarla su quest'altro computer che adesso è redivivo, l'altra notte ho finito alle 3 di notte e poi ho dormito anche di cacca, vai Claudio. Vabbè, stai facendo cosa, cosa devi fare? Chi era l'altro? Gianni, tu sì. Ehi, buonasera a tutti. Dai. Vabbè, Claudio, Giuseppe, una si sa. Non mi ha mandato un messaggio adesso a Valerio, ancora non mi ha risposto. Non so niente ancora. L'ho pitto. Non te che vado ad Alghero, se poi non mi fanno entrare. Devo essere sicuro che, insomma, può ricevere. Ehi, non lo so, sarà in terapia intensiva, no? Sicuramente, addirittura era rianimazione, quindi. Cosa, già? Si sa se te la voce di Marco grida, no? Speriamo che si salvi, che si riprenda. Io sono intrico, speriamo bene, sto aspettando notizie da Valerio. Dopodiché mi muovo, perché non te ne andare, non ti fanno entrare. Tu, capito? Provate a chiamare a casa sua, però non risponde nessuno. Pensavo che ci fosse almeno la nipote giù, invece non è comunicante il telefono, capito? Va bene. Claudio, ma era l'ex telecom? Cosa gli ho fatto? No, ho chiesto a Claudio, era quello che lavorava nel settore telecom, eccetera. No, è per un video. No, Gianfra era... l'assistente capo, diciamo, il direttore dei lavori delle ferrovie. Ah, ho capito. No, perché l'ho sentito un paio di volte. Era quello, se non sbaglio, c'era un'antenna, che mi ha detto che era una specie di antenna veicolare, qualcosa del genere. Sì, sì, sì, quello ogni tanto muoveva con lui, là. Spero ritorni a modulare, spero. Per quanto mi ha detto Valerio non parla più. Quindi aneurisma scommetto, no? Così è, bisogna dire. Se non ricordo male. Cosa, Marco? ha avuto ischemia, hai detto? Sì, sì, lo ischemia cerebrale, ma non parla più, non parla, capito? No, e poi la rianimazione, raccomandami. Vabbè, non ci voglio nemmeno pensare. Adesso oscillo Gianfranco ancora. Gianfranco! Dimmi tutto. Purtroppo cose sono cose brutte, ma è così. Un po' gente anche di un po' giovane, ma parliamo d'altro che meglio, per carità. Poi con questo tempo, perché si sono tutti ghiacciati in questo mondo, guarda. Le sbalzi di temperatura sono terribili, terribili. Io ho anche gatti che si nascondono dalla paura, guarda. È una cosa veramente quest'anno, ma dimmi tutto Marco, dici. Dovrò pagare la consulenza. Ciao Gianni, non ti avevo ancora salutato. Ciao Gianni, ben entrato. Allora, io ho un computer che usa delle RAM DDR, una RAM DDR333, no? E ho recuperato una RAM di analogo periodo, però è DDR400, la posso mettere là? Funzionare al limite a 333 alla velocità di quella minore o mi servire qualcosa? Brevemente ti dico che fa una costaglia, ma costaglia brutta, le prestazioni corre anche il rischio che diminuiscano. Quindi tieni presente che poi c'è una gestione delle memorie che inesistente praticamente, e il gioco è fatto. Perché vabbè, su internet hanno detto di tutto e di più, o che può dare instabilità al sistema, o di solito dovrebbe lavorare comunque alla velocità di quella minore, tutto lì. Però sai, ci può essere incompatibilità anche tra RAM e RAM. Io volevo provare a metterla e farlo partire. Se la riconosce bene, se no la leggo. Non credo che ci bruci nulla, no? Non salterà in aria il computer. Sì, sarebbe meglio così almeno per il computer nuovo. Vero, grazie. Avere i soldi, mamma mia. Comunque ha ragione Natalino, l'assemblato è più facile. Lo imbottisci con quello che vuoi tu, è più facile metterci mano. Mamma mia, il portatile è una maledizione, non c'è spazio, non, tutto compresso. Nell'assemblato ci avevo aggiunto cose di mio gusto, eccetera, più versatile, dai. E boh, non so cosa fare. L'importante è che non faccia danno. Se io so che la metto, accendo, vedo che è instabile o non va, spengo tutto, la levo. L'importante è che non faccia danno alla scheda madre o roba del genere. Quello mi interessava. Guarda, una cosa che tu non devi fare è quella di togliere il processore. Se non tocco il processore è un po' difficile fare danno, a meno che non metti delle cose diverse, tipo ti metti a mettere cose incompatibili. Però se stacchi il processore e poi non ci rimetti il termico, tempo 2 secondi vedi il fumo, perché si brucia istantaneamente. Quindi, è così, è così. Che prendi la lì? Sì, già non è tocca processore, non è macco. Guarda Gianfranco, di solito io vado esclusivamente a via Bucari a far fare tutte le operazioni. Io il computer lo voglio solo usare, ma non ho mai toccato dentro, solo che ogni volta che vai sono 80 euro per farti una fesseria. Quanto tanto la scheda video l'ho messa io, che alla fine non sono così impedito da non saper togliere e mettere una scheda. Vedo che l'ha riconosciuta perché erano probabilmente uguali, che sono contemporanei i computer, li ho preso nello stesso periodo, perché prima uno, poi ho deciso di salvare anche l'altro. Non vorrei andare in via Bucari per farmi mettere una RAM che ho già, a sentire un consiglio almeno. Il periodo è quello, 2004, sono contento. contemporanei i computer, cioè perché uno ha una scheda Asus, la K7 non mi ricordo cosa la sigla, è un Asus, l'altra è una, cosa era? Boh, non me lo ricordo. MSI mi sembra che fosse. Mi pare, sì, sì. Sì, oramai la barba viene considerata a carraggio e basta. Se è stato un stima e chi non c'ha più gestione, già a volte prende i colpi il mio con quadri core, con 64 bit, memoria Google, però prima o poi mi devo decidere a togliere anche il browser perché ogni tanto si impalla, i siti ormai sono troppo carichi, sono fatti apposta. C'è una politica di appesantimento, hai notato rispetto al passato, c'è una politica di appesantimento notevole con filmati, pubblicità, in movimento, tutte le belle cose lì dei siti. E questo al lato poi dell'interpretazione da parte del computer si crea un appesantimento di tutto il sistema che negli altri anni non c'era. C'è un po' di cemento, tanta porcheria anche sulle pagine web, per cui sì, davvero veramente triste, ma triste un bel però. Quindi se devi guardare filmati o cosa, anche su YouTube, tipo gli HD, eccetera, poi lasciamo perdere. Io te l'ho detto, al posto di dare 80 euro a quelli lì, ti vado di inserire una scatoletta che c'è un quadricolo, lo stesso, degli Atom, a me sono fatti per vedere i video, per navigare, i virus non te ne entrano perché in ogni caso è residente su una memory card interna del sistema operativo. C'è il dual boot, quindi può operare sia in Android sia in Windows 10, più ne puoi, vanno benissimo, per quello che devi fare tu ce n'è in avanza. Poi ci collega una disca esterna se devi memorizzare, oppure una schedina da 32, da 64 bit, anche questo, quello che ti fa. E no, vedi tranquillo, con un centinaio di euro, e non spendi tutti quei soldi a far vedere il carraggio che ti prendono in giro. Eia, vabbè, importante che mi permette ancora di navigare, di ricevere posta, ma c'è perché l'ho voluto mettere, poi faccio girare, perché c'erano un sacco di programmi gratis, tutta roba piratata, e poi c'era soprattutto la scheda di acquisizione video. Io quando faccio video su telecamere che hanno ancora il nastro, vedi 8 mm i band e DV, mini DV, sì. Trasformavo, sai, quelle hanno lo zoom spinto, hanno tante funzioni che lo smartphone non ha. Trasformavo i video in DVD con la scheda di acquisizione video, cioè permetteva almeno di mettere da nastro a computer, e poi trasformavo in DVX o comunque un formato compatibile con YouTube per pubblicare video, perché se no farli con gli smartphone, ne ho due di smartphone, farlo lo smartphone non ha quelli zoom ottici meravigliosi che hanno le videocamere proprio manuali, capito? Poi lì è un po' granangolare l'obiettivo, quindi insomma era meglio fare acquisizione da quelle vere telecamere, capito? Bene, quindi adesso lo posso fare, comunque vedo le naviga, i video bene o male, magari qualche scattino, ma li vedi, a me interessa che apra le pagine internet, insomma sono riuscito a farlo funzionare. Bene. Dai, fate girare, non parliamo di computer, tanto mi devo dedicare a quello adesso, devo installare, fare, cambiare cartucce, vai già. Ma l'hai messo a posto questo computer, cosa hai fatto? Questa scheda video l'hai cambiata? Sì, allora ce n'era uno che era tutto col... così mi hanno detto, abbastanza sfasciato, la disca era andato, se ne mettevo un altro si bruciava, insomma. Sì, ho tolto, l'ho cannibalizzato, ho tolto tutto quello che si poteva togliere, tranne il processore che non mi serve, perché la scheda video è diversa. Sì, ho tolto RAM, scheda video, quello che interessa di più, RAM, scheda video. Poi vabbè, gli ho tolto altre due cosette. Scheda capito, l'ho montato su questo che ce l'aveva bruciata e ho già risolto, è partito, è un partito, no. Ha funzionato, dai, perché lo stavo piangendo, non potevo fare acquisizione video, c'erano belli programmi gratuiti di quelli a Umma Umma, no, tutti razziati nel corso degli anni con password di registrazione, cioè. Non ne parliamo, dai, guarda, fate girare, dai, voi, vai, Claudio. Sì, vabbè, di qualcosa bisogna parlare, se vuoi dico. Io il mio è nuovo, ho comprato l'anno scorso, inizio dell'anno, della Lenovo, c'è tutto nuovo, una bella scheggia, però non mi domandare quant'è, perché me l'ha sembrato Luca, e ha detto che è un bel veloce, ma molto bene. Va bene, va bene. Niente, Valerio non mi risponde. Io quello che c'ho è sempre funzionante, non si è mai rotto, meno male. Una volta solo l'ho formattato e poi funziona sempre. C'ho praticamente a livello di tablet, che è piccolino così, nell'accio. Ma non lo uso quasi mai, uso più il telefonino per queste, per le cose che devo fare. Mi è più pratico. No, vabbè, io c'ho quello fisso e... Ce ne ho due, uno che è sempre spento, intanto l'accendo, poi c'è tutto il sistema delle radio, tutta la parte amatoriale, e l'altro è normale, lo uso su internet, le mail e basta. Vado a vedere qualche fesseria su eBay, però non c'è Facebook, non c'è niente. Pulito, pulito, ed è nuovo, nuovo, nuovo. Non l'aveva fatto comprare Luca, perché appunto non me ne intendevo, quindi ho detto interessati tu, e ha fatto tutto lui. Va bene, avanti Natali. Come si chiama quel mini che hai tu, Gianfra? Ne ho due. Uno c'è anche lo schermo, si chiama Pippo. Posso che è un po' strano, però è Pippo con dual boot, sempre sistema sia Android sia Windows 10. L'altro, se mi aspetti un attimo, ti do il nome, è un attimo. Sono piccolissimo. Ah, quei computer piccolini sembravano portati in miniatura, l'ho avuto uno un tempo, però no, non lo usavo, non mi trovavo bene, e poi mi sa che lo sai che era più veloce lo smartphone di adesso che quel computer gira, l'avevo rivenduto, non mi trovavo bene, e vabbè, uno o si trova bene o si trova male. Natali, Wintel, ed è anche un modello vecchio, adesso ci sono i nuovi, ancora più performanti. E hanno all'interno un processore Atom, così è. Sì, quadricore, ma devi vedere come gestisce il video, Infatti molti li usano, anch'io lo uso, infatti ho iniziato la videosorveglianza, che ogni file pesa a livello di giga, e sia per vedere anche i film, eccetera, anche in full HD, si vede benissimo, perché tutte le uscite sono HDMI, non c'è l'uscita la bugia, c'è quelle HDMI in alta definizione, e va bene, va molto bene. Poi c'è anche, cioè, i programmi, io uso prevalentemente Windows 10, metti programmi di controllo remoto, tutte quelle cose che riesci, lo gestisci tranquillamente da fuori, non consuma un tubo perché ha i bassissimi consumi, e va bene. E qua ne ho, guarda, un po' davanti il computer, ne ho una bella di tre, uno c'ha uno schermino da 10, 12, non so, che è tipo, l'altro è quello che dicevo collegato al televisore, e poi c'è l'HP qua che è scoppito a capo, diciamo. Ah, e poi c'è anche l'altro, il tablet, che lo stesso c'è lo stesso sistema del Winter, dual boot. Adesso guardo, sono troppo pippo, così mi hai detto. Dai, io vi lascio che c'è gente a casa, dai. Ci sentiamo la cucina. Buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Le prossime. Mi piacerebbe avere comunque un computer nuovo, o portatile o assemblato, un Windows 10. Naturalmente è un po' spinto, in modo che quando ragioni al sistema operativo successivo sia ancora in grado di gestirlo. Però ci vuole tanta moneta. Inutile comprare uno in classe media, e poi già lo aggiorni al sistema operativo superiore, già va, non va bene. Ma queste cose sbagliate, stai dicendo cose sbagliate. E beh, d'altronde uno, cioè io lo voglio performante. Se già la RAM non basta per il sistema operativo poi nuovo che si metterà rispetto al 10, non so cosa ci sarà. Se no risulta già antiquato, cosa me ne voglio? Guarda, quando loro stanno prendendo il computer è già antiquato, quindi di cosa stiamo parlando? Ma non sai quanto dura un computer? La vita ormai di un computer medio non supera neanche 3 anni, perché è l'evoluzione tale. Però se ci sei appresso ti prendi la casa. Per quello devi fare tu, ti basta un computer economico, poi dipende da come lo usi, da quello che ci metti dentro, dal fatto se vuoi usare o meno, ecco. Ma usare intendo non battere sulla tastiera, ma capire quali sono i rallentamenti che subisce la macchina e perché, se ce ne sono tanti, ti posso assicurare. Te lo compri il mio, Marco, aiuta, ti do il mio e così la facciamo finita, tanto io me lo devo rifare. Questo è un dual core 5002 della Intel, Windows 10 a 64 bit, c'ha 4 giga di RAM, ho ultimo e baravano me a mezzo, ed è un fulmine. E mi vendo un rene per comprartelo. No, io ho nuovo niente, usati no. Così che hai detto, Marco, ci vuole un capitale per comprarlo, no, si risente. Comprato neanche 6 mesi di vita, c'è cioè il mio della Lenovo, fatto 400 euro. Se invece sta comparendo i portatili, compare già di un computer. Io te lo do 150 euro, così aggiungo i soldi e me lo faccio nuovo. Capito? No, c'ho altre priorità prima. Già lo sai, il mezzo a 2 ruote, poi ci penseremo. Se pensate che io sto tirando avanti, adesso c'è il computer fisso con XP. Il portatile del 2005 c'è XP, io sto tirando avanti con quelli ancora. Riesco ancora a navigare perché grazie a Dio quel browser è molto più leggero, Firefox è una cosa allucinante, un mangiatore di risorse almeno per le mie poche che ho. Sto tirando avanti con quello, non ci crede la gente. Eppure, quanti anni sono? Dal 2004, 14, 15, 16, 17, 13 anni sono. Sì, ma se vai a comprarlo nuovo, ti ho detto, non costa un capitale. Ce ne costano poco e funzionano bene. Vabbè. Sì, l'ho visto qui da 3,99, boh. A me me ne piace il buono da 7,99, ci aveva già il top 8 giga di RAM. Insomma. Vabbè. Di classe media. Vabbè, non sto comprando niente ancora, non vi preoccupate. Ma quando a comprare il computer io ci sarà Windows 11, forse anche 12. Ma no, perché la 13ª già spesata lei? No, vabbè, la 13ª non è mia ma è di mamma, io non ne ho 13ª. Ah, non è 13ª, vabbè, usa quella di mamma. E poi mangiamo pane e cipolla. Che male, con un pochettino di olio crudo. Beh, è buona anche fare cipolla, ci mancherebbe. Vabbè, comunque devo andare, dai, mi devo azzuffare con letto, urgente, cambio cartucce e poi devo installare la stampante nuova che non era mai stata installata sul computer fisso. Vabbè, ma piano piano già si compra tutto, si compra tutto. Ui ui ui, vabbè. Sono freddo ancora, usci, che ore sono? Quasi le 7, meno 5. E domani è sabato, bella settimana, è finita, è passata anche questa già fa. Ehi, tu fidati, Claudio, neanche te ne accorgi di come stava passando il tempo. Io proprio mi spavento. Dico, boh, ti ritrovi a 70 anni e non sai neanche come ci sei arrivato. Comunque, se guardi su eBay, ce n'è di tutti i tipi, guarda, completo, Intel Quad Core, RAM 4 GB, 156 euro. Quindi, offerte di lancio, senza stare lì con questa ferraglia, per cavolo, garanzia a 2 anni, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i tipi. Quindi, come ha detto Claudio, a posto di spendere soldi così, regalarli magari a quelli che te l'ho formata, non ti rimettono sempre la sua porcheria, te metti da parte e con 200 euro te lo prendi, è un qualcosa che va sicuramente meglio di quello. Sì, quello è vero, poco ma sicuro, solo che non mi fido molto della roba usata, Gianfranco. Il computer è una cosa delicata, poi chi te lo vende non ti dice a me le magagne, se c'ha problemi, se c'ha, capito? Tanto vale, me lo prendo nuovo, 3,99, 4,99, una cosa media, 4 giga di RAM, purtroppo se ne ho 3 anche meglio, ma non è per adesso, dai, ci abbiamo altre priorità, come ho detto. Eppur si muove, come dice Galileo, che eppur si muove. Guarda che io sto parlando di roba nuova. Nuova, a 200 euro, ma tu stai parlando di assemblati, di portatili, di cosa stai parlando? Questi sono assemblati. Come? Parla forte, Gianfranco. Sono assemblati con processore Intel. Cioè il PC, guardate su eBay, fate un giro, vedi un po', cioè c'è tanta roba, ci sono anche dei ricondizionati eccellenti, se vuoi proprio spendere 80 euro, se ritirano in testa, proprio il PC è un prodotto che, se ti sto dicendo che ti moderni del tuo, ce li abbiamo buttati, quindi immaginati. Ma te vanno a regalarli a me, cavolo, a saperlo, li avrei cannibalizzati, mi sarei tenuto schede video RAM, almeno quello. Ho Natale. Oh. Allora, quello cannibalizzato aveva il Duron 1003 come processore, te l'avevo già detto. Quello attuale, rimesso a posto, ha il processore Athlon XP 2008 Plus. Athlon XP 2008 Plus, quello lì, è del 2004 e dintorni sempre. C'è roba, roba che adesso fa, fagli dire davvero, cioè fa vergognare più che altro, ho capito. Un attimo, che mi sto prendendo. Via. Va bene. Ci hanno un po' assemblato, cosa consigli di marche? Che ne sono portati le di marche, cosa consigli? Asus, Acer? Ma stai dicendo a me? Gli altri non fanno niente, a parte Natalino, vabbè, è buona, è mastica. Ma la mia preferita è senza dubbio l'HP, comunque c'ho anche un vecchio HP che ci fa pensare Windows 10 e è tornato un bellissimo giocattolino, è un Toshiba, di quei computer, diciamo, portatili un po' piccoli, ma è lì disuso, è l'uso per la programmazione di determinati apparati, per non stare lì a montare gli apparati, utilizzo quello che ha campato e va per bene, tutto Windows 10 comunque. Poi il tuo discorso è campato in aria, ma chi è che parla più di Windows XP? Non esiste, neanche proprio, è finito, è morto, è deceduto. Mi, ne vedi, Quad Core 236,60, spedizione gratuita. Avanti, mi ne sono, che faccia, dico, non mi conviene più a farmi il mio video così. Ma certo, una tale che ti conviene, perché se tu vai a comprarti la disca, qua te lo fanno fare un pacco di soldi. Quelli lì ne prendono 100, 200, le fanno grossi sconti, garanti a 2 anni, quindi... Che te frega, ce l'hai già pronto. Cazzo, questo qui 240 c'ha... aspetta, qual è? Che c'ha l'i5. 348 c'ha l'i5 dentro, 7004. Sì, infatti, è così. È così, Natalie. La cosa a pezzi costa sempre più cara. Se tu vuoi costruirti una macchina, un'automobile a pezzi ti costa 20 volte più del... dal fatto, no, cioè dal contratto che ho già fatto, quindi è così. L'unica cosa è che spesso queste macchine hanno il sistema operativo installato, diciamo, senza seriale, ecco, però se non te ne frega niente ci butti dentro il solito attivatore e ti riaccampa tranquillamente. Con Windows 10 non cerchi quell'intelligenza che c'era prima, adesso se ne fregano, ne stanno facendo talmente tanti che per loro, anche se ce ne sono fracassi, non me ne frega niente, anche perché tanto a livello di seriale solo per scattare. E infatti chi se ne fotte, io non c'ho Windows 10 qua attivato e tutto. Oh Gianfra, ma di questi venditori internet appunto che fanno questi computer a prezzi abbordabili, per non dire bassi, me ne puoi raccomandare qualcuno? Ho già detto, vai su eBay, guardi, quelli più affidabili, c'è scritto, no? C'è una featherback più alta, se lo prendi di lì, se lo spediscono anche gratuito, l'ho visto anche da Salino, c'hanno anche 8... qualcuno ha visto con 8 giga di memoria, insomma sai quello per te ce ne c'è avanza, il disco oramai sono tutti da minimo un tera, di più ne puoi. E questi SSD sono affidabili, questi dischi esterna memoria allo stato solido? Sono affidabili finché non si rompono, come tutte le cose, però ti costano un pacco di soldi. Io ce l'ho qua, ma l'ho staccato perché li sono anche tra l'altro piccoli, perché dava qualche problema come sistema d'avvio, perché io siccome faccio sempre le coppie direttamente in hard disk, sono hard disk backupati per sicurezza, e quindi da un passaggio all'altro tramite programmi professionali di creazione di coppia mi dicono che c'è qualche problema, capito? Preferisco l'hard disk classico che anche se più rumoroso e consuma un po' di più, però sai, se si rompe, se lo rampi, eccetera, il volano costa oltre 2 volte. Ah, ok. Bene, beh sì, in effetti qualsiasi computer, anche se economico, vola rispetto a quello che ho io, vola. Sì? 13 anni sono tanti. Comunque... anche il portatile, no, che è il 2005, io non credevo che sarebbe durato così tanto, credevo che sarebbe durato molto meno, poi sarebbe rovinato altre componenti, adesso vabbè tocchiamo il crepo, però aspetta, un portatile c'ha già i suoi anni, anzi i suoi decenni. Guarda, poi noi abbiamo anche i servizi tecnici, quando si sfascia qualche computer si vede subito cosa è. Non è il processore che dura molto, quando una volta che è messo bene per le questioni termiche, per stare tranquillo. Quello che fate sono i condensatori, perché cioè le schede sono proprio messe a pelo a pelo. Se eroga, che ne so, se un circuito che eroga 12 volt, quelli magari sono appena da 16, quindi il minimo sbalzo si rigonfia, dopo un paio d'anni poi si gonfiano lo stesso e bisogna cambiarli. Questo succede sia a livello di alimentatori sia a livello di schede madri. Quindi quelli sono i problemi che affliggono di norma quasi tutti i PC di una certa età. Però è anche vero che se hanno una certa età non campano certo come noi PC, diventano rapidamente obsoleti e questo non ci può fare niente, perché proprio è una volontà industriale per far ciò, come i televisori, ogni volta ne esce uno nuovo, ti tocca cambiare tutto ed è inevitabile, quindi prega la tua conseguenza. Mi prendi Claudio, ma però si è allontanato, non Claudio ci sei qui? Sì, ci sono, vi sto ascoltando, continuate che mi sto facendo la cultura, vai Natali, riprendi. Oh, uomini! Ci è tornato, sei dal campo. Il mondo. Vabbè, un po' di gente. Buonasera comunque, pieno il mondo. Io devo prendere una pennina, te l'ho detto, no? E ho dovuto fare la fila, cazzetti proprio schifosa, per carità. Una volta mi chiedono, non so rispondere. Da quant'è il mio computer, tu che l'hai comprato tu? Com'è? Cioè, cosa vuol dire com'è? Cosa vuoi sapere? E com'è? Quanti giga, quante RAM, quanto tutto lì com'è? Ma no, se non erro è 4 giga di RAM il tuo, mi arrischio mi sa che è 500. Non mi ricordo, 320, non mi ricordo qua, perché? Così per vedere se era. Perché stavo parlando di computer. Per vedere se è buono il mio, capito? Siccome è un bel veloce. Se è buono, c'è un Lenovo, buono, chi deve avere se Lenovo è buono? È un mito, È un mito di computer, capito? È buonissimo quel computer, non buono. Sì, no, siccome è un bel veloce, stavo dicendo a tutto Natalino che l'avevi fatto comprare tu l'anno scorso, no? 2 anni fa, se non mi ricordo. Ed è perfetto, capito? È una scheggia. Là, quella l'aveva comprato mio amico, mi sa che l'aveva pagato, se non ho capito male, 500 euro. Poi, è tanto anni che non lo usava più, cioè non lo teneva conto. Infatti quel PC era, se mi viene detto, un mentira da assultarmi, Era tutto tu, ma tutto pulito, tutto. E niente, aveva pagato un po' di soldi per computer. Poi non li mandi a nulla e gli altri a me per venderli. Sì, no, quello stavo dicendo. Vabbè, riprendi Natali, se no riprendi tu Marco. Sì, va bene, io vi devo lasciare, dai, mi devo dedicare a quella roba lì, ok? Ci sentiamo domani ormai, ci sarà un bel po', dai, appresso. Buona serata a tutti, ciao Luca, ben entrato, ciao Gianfranco, Claudio, Natalino, tutti quelli a posto, ciao, vai Claudio. Non è tempo a sembrarti che un computer, ma sono i 7, adesso ti metto a sembrare il computer. Cosa sembrare Claudio? Devo cambiare le cartucce alla stampante e dopo devo spiacciare, installare la stampante nel computer fisso messo a posto. Ah, no, non capito, pensavo che ti mettere a sembrare qualcosa. Avanti Natalia. Via. Sto leggendo, ma sono antiquati questi, e per quello li danno a questi prezzi. Ma quelli di internet? Sto guardando le specifiche. E allora siamo lì sempre. Siamo sempre lì. Vabbè, rispetto ai miei saranno fulmini, no, Natali, però non ne compro uno che è una via di mezzo. Vabbè. Ok, vabbè, ciao a tutti, non li prendo, ciao. Ciao. la 65004 come processore, com'è? La 65004? La 65004. 16 GHz? 3,80. Allora, il processo di guardare è questo, aspetta. Di guardare questo qua, per esempio il mio è un 2.20 GHz, è un dual core, un Intel, vabbè, dual core, TM, dual core, CPU, due CPU. Pensa che questo qua va bene come computer, non è che sia il massimo, ma va bene, io parlo di un portatile, poi il fisso è superiore, dicono è superiore. E fisso è questo, a 65004 il processore, velocità 3 GHz e 8. Ma dov'è? Il mio più grande di quello è stiamo parlando dei computer diversi, che tu hai un Lenovo, capito? Lui ha un Compaq, non è male ma quello è natalino, perché l'ho sempre usato e andava benissimo, non mi ha mai dato problemi, mai. Poi già natalino, già lo sai, ti ho dato una cosa nuova, no? Confermi una cosa nuova. Eia, non ti sto dicendo niente, è che non si trova più la scheda madre, perché sennò me l'avrei cambiata, l'ho rovinata io la scheda madre, non sto dicendo nulla, è che c'erano i cavi SATA saldati, mai visto ne avevo, guarda, togliere i cavi SATA e non gli salta di tutto. Dove? L'ho trovato io? E allora? Sì, si è rotto allora. E infatti, io infatti me lo devo rifare un computer, mi serviva un video per quello. Ma che cavolo l'ha fatto a staccare il cavo SATA? Erano saldati, non ha compreso, noi erano i mobili, io cosa cazzo ne sapevo che erano saldati, e tutto, tutto cosa, ne manco chi su di la trammata, il bandello, ne buca vacca, ne buca i ribetti, non ha compreso, se no mi avrei utilizzato questo il case. Dalla serie non lo puoi più utilizzare, ma ha altri ingressi comunque, non ne ha solo uno, Natalino, sarà strano che abbia i cavi saldati nella scheda madre, è possibile. Tempo, forse magari erano, guarda che è in casso il cavo, se vuoi ti mando una foto, ce l'ho qualcuno io, sono in casso. Perché non lo so che sono in casso, io non so una da rimane. Ti sto dicendo che erano così, se no non li avrei tracciati, no? Già lo sto utilizzando, perché ho preso e usato gli altri ingressi, ma non sono i suoi. Ma funziona comunque il computer, sì. Sta andando. Natalino, portati. No, fisso è. Oh, Cla, ciao anche a Gianfranco. Cla, guarda che se ti interessa, cioè, no, a te, a qualcuno che interessa un PC, lo sto vendendo, c'è la prima, un blu web, già mi rivolto. L'ho sistemato, un HP, un portatile. Che hanno, ma funziona bene, se lo vedi è nuovo. Ma stai dicendo a me o a Claudio? No, a Claudio. L'unica cosa che gli manca è la fotocamera, c'è la webcam che non ce l'ha incorporata. Scusate, volevo fare godere Gianfranco della mia bruttura. Sì, guarda, io ne vedo talmente tante di brutture, ma più mai meno. Comunque, Nathalie, per rispondere, neanche io ne ho visto mai seriata saldate, sono tutte con gli spignotti, magari c'era lo spignotto plastico bloccato, quello può capitare, magari è duro, è nuovo, non si stacca, devi premere abbastanza forte, ma proprio saldato sembra una cosa molto molto strana, giusto qualche portatile ce lo può avere, ma è una cosa notevolmente insolita. Sto dicendo, mai visto ne avevo cose del genere. Addirittura hanno messo i rivetti per non aprire il pannello laterale, quello di dietro della scheda madre. Quello non si può aprire perché hanno messo i rivetti, ma non aprirlo blu. Perché è un compact, non è di quelli assemblati, capito? Hanno fatto di tutto e di più. Allora quelle sono porcherie fatte in fabbrica per non modificarlo. No, sono tutti così ripetati, la parte della soldatura dove c'è la scheda madre sono tutti così, anche il mio è così. Ma che senso ha aprirlo da lì? Scusa, giusto per pulirlo al limite, ma non per lavorarci. Anche per fargli passare i cavi, per non vedersi i cavi dentro il computer. Capito la cosa volevo fare? Comunque Gianfra, io in questo computer rimesso a posto da tavolo sto usando ancora un tubo monitor a tubo cattolico. Sì, vi fa le reazioni qui, i consumi soprattutto. No, ma guarda Natalina, non si fanno passare dietro, te l'ho già detto che il computer è pieno di oscillatori, se tu inizi a mettere più lunghe, poi accendi una radio, accendi un qualcosa d'altro, ne senti di badare l'armonichetta a destra e a sinistra. Quindi i cavi sono fatti corti così, vanno dall'alimentatore i più corti possibili alla scheda madre, alla disk e compagnia cantante. Quindi non vedo, i cavi dentro si devono vedere, perché se devi fare degli attacchi non devono andare dietro. Cavi dietro io non ho mai visto e messo. Proprio i quanti ne abbiamo aperti, perché proprio non si mettono. Tu Luca, cavi dietro dove c'è la scheda madre, diciamo, saldata, mai visto, né? Forse si è allontanato. Sicuramente l'ha chiamato la mamma. Comunque non si mettono, per poco ma sicuro, perché si fanno delle, come si può dire, delle cazze. Guarda, adesso i chiesi che stanno facendo adesso si mette l'alimentatore sopra, addirittura non sopra, e fanno passare i fili dietro. Boh, mi sembra strano, anche perché oramai le schede sono sempre grasse, quindi hanno solo il connettore d'alimentazione, eventualmente il connettore radio con eventuale DVD. Quindi, e ovviamente poi la freddina per il collegamento a frontale del case. Mi sembra una cosa un po' anomala comunque. Poi gli alimentatori sono quelli verticali, orizzontali, con ventola interna, con ventola esterna, con conduttore d'aria, cioè per tutti i gusti. E comunque ha controllato le specifiche di quel PC, stavo dicendo, quello da 200 e passa, 220, il processore è un Intel comunque, la scheda era da 8, memoria RAM 8 giga, quad core Intel G1900, scheda radio integrata, ma oramai ce l'hanno tutti integrati perché sono abbastanza buone con integrati. L'unica cosa, si deve attivare Windows 10, ma te l'ho detto, ci metti un seriale recuperato, a quei prezzi mi sembrano abbastanza, come dire, normali. La disk è da un tera, quindi ce ne stavi dopo. Lo so. E poi c'è anche la garanzia di 2 anni, che non è poco. Tutto lì. Io invece stavo pensando che quasi quasi faccio un radiocidio. Come si ammazza la radio, Claudio, quando sei al primo piano? Tu a te viene bene, perché puoi salire nel terrazzo e buttarla verso giù, se non cade in testa qualcuno. Ho capito, come si ammazza? Una radio. Come si ammazza? A buttarla alla finestra. No, piano terra, magari non si fa niente. Sai, sopra il tetto. No, dalla meglio la faccio volare io da 50 metri. Radio che non si vale il lavoro che mi sta facendo fare, guarda. Sono, tra virgolette, dimenticato un'impostazione che poi non sto guardando il GPS, è tutto regolare. E per farla ricevere il premere a tutti i costi questo pulsante che poi una volta spento la riaccendi e non ti fa ricevere. Ma è una cosa veramente, guarda, indegna, quello tempo che mi sta facendo fare. Guarda, è una cosa allucinante. No. signora che vi ha fatto parlare dal balcone. Quando le radio sono così che fanno perdere il tempo, aiuto, volare. Una volta mi ricordo un commutatore d'antenna. Non funzionava, poi accendevo, commutavo e tutto silenzio. Staccavo, riattaccavo, funzionava, poi lo riattaccavo, si è marrotto le balle. La giovattura deve essere ancora buttato qua nel giardino. Ho fatto volare dalla finestra, si sì, domani gado male. Allucinante. No. Quando una cosa non funziona, fuori, buttare via. È nuova, Dual band, dual modem. Ma mamma mia. Proprio disabituato a trattare questa spazzatura, ma proprio disabituato. No, veicolari, io ne ho due, non sono due anche normali, non mi interessa neanche piazzarle, neanche mettere, perché no, tanto io ho in base, sono spenti quelli, figurati se mi metto a stare con quest'altra mondezza in mezzo ai piedi. Mi sto usando il baracchino anche, mi sto per non tenere un po' in riservati il 30 al 40, e vabbè, così sono le radio, Gianfra, la rottura di palle e basta. Luca, ci sei? Questo c'ha un Intel Core G1900 a 2 giga. Come configurazione, Gianfra? G1900, 2 giga, quad core. Mi è sembrato sentire qualcosa sotto, non so se io ho anche lo squadro. Ma guarda, per me va bene, considerato anche che c'è una garanzia di 2 anni, ma il discorso che facciamo noi quando prendiamo dalle macchine non è quello va bene o va male, è sempre lo stesso, quello che ci devi fare. Se ti devi fare una strada di campagna con i buchi, non ti prenderai una 500 che si faccia in cammino, ti prenderai un piccolo SUV, un po' di strada. E così vale anche per il computer, c'è gente che dice ma quello è per programma quello lì, poi cosa fa? Si mette a scrivere lettere e a consultare mail e basta. Cioè, che senso ha spendere un pacco di soldi, prenderti una Ferrari e poi c'è tutta la strada per là? Cioè, sono soldi buttati. Dipende da quello che deve fare ognuno. Certo, se devi fare videogiochi di ultima generazione, è ovvio che ti serve una macchina performante, ma di grafica soprattutto. Ma se non devi fare quella roba lì, che te frega, ti prendi un quadricore, cioè anch'io qua lo sto usando adesso tal cosa. Ma va bene, va benissimo. Certo, la macchina non ha capito che all'epoca costava anche un pochino, con i suoi 8 giga di RAM, eccetera, eccetera, a dischi dalla Samsung, performante e così via. Però, è un semplice quadricore, non vado a prendermi un i7 per fare programmazione sulla RAM, capito? Sono soldi passati. Eppure gestisce anche i videogiochi, perché io ho usato Call of Duty, poi l'altro di guerra, quello Sniper l'ultimo, insomma la grafica era perfetta, non si è mai mollato, no? È andato sempre tranquillo, quindi non capisco questa foga di avere l'i7 o chissà che cosa, quale processore. Tieni presente che sulla Luna, quando hanno mandato l'Apollo, ti focalizzavano con 286. Questo è un Vulcan, un Vultec, c'ha addirittura la licenza per Windows, ti danno, Windows 10 Pro con la licenza, ma dimmi tu, e costa 264,99, c'ha 8 giga di RAM, un hard disk da 1 tera, wifi, ingressi HDMI, DVI, VGA 500 watt completo, pronto all'uso, veloce, ufficio, casa, internet e social network. Quindi gira mi sembra che mi ordino questo. Vabbè, solo il case, però un Atari, non completo. E alla fine se devi fare un acquisto di un PC completo da con tastiera, mouse, cavi, tutto lo paghi un bel. Se hai preso il case, 200 euro tiroso, un po', non sono pochi. Se è completo, là ci sta. Vabbè, dai, io con questo passo io vi saluto e chiudo. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ma l'altra roba ce l'ho, mica me la vado a comprare, devo comprare solo l'Ughese e anche Vizio che hai fasciato. C'ha la scheda madre rovinata, capito? Se l'avessi trovata l'avrei ripristinato, che già lo so fare io. C'è, se cerchi subito la trovi la scheda, cerca, cerca. Solo dici a me qual è il modello esatto della scheda, te la cerco io. Magari non su eBay, ma su AliExpress, lì, con quei siti lì. Già si trova, non ti preoccupare. Babu, ciao. Ciao, Luca. Natalino, la mia, l'ho guardato adesso, è una Asus A7V8X, quella del fisso. Ed è un po' più piccola di quella dell'altro cannibalizzato, capito? Un po' più piccola è. Infatti il case è diverso, sono diversi i case. Qua, questo è un quad core, questo che sto guardando adesso, e costa 264,99. C'ha 8 giga di RAM, quad core mi, non è dual core come questo. Ti danno pure la licenza di Windows 10, di Bidu. Oh, cazzo! Vabbè, dopo mi faccio un bel giretto lì. Dopo mi faccio un bel giretto. Bene, bene. Ah, aspetta! Oh, va. Sì, Francesco, buonanotte. Gianfra. C'ho anche il lettore floppy in quel computer e lo uso perché ho decine, forse centinaia di floppy, a trasferirli ci vuole troppo tempo, allora me li apro direttamente dal lettore floppy. E ti ho già detto che secondo come la formattazione, hanno una formattazione fatta vecchissima, i computer nuovi non te la leggono neanche se fa un trasferimento, ma non solo, ma non accettano neanche di trasferirlo. Cioè. Quindi per il discorso ci ho già provato, perché avevo provato dei cosiddetti, ne avevo tentato il trasferimento, ma il sistema operativo su Windows 10, soprattutto, ma anche il 7, si dice, bello mio, questa roba è roba retorica, non è possibile aprirti. A parte che i programmi non girerebbero, perché sono troppo obsoleti, quindi considera aperta quella roba. Beh, diciamo che li ho fatti sia col 98 che con XP. Su XP me la apre come? Solo che allora forse sarebbe meglio trasformarla, metterla su chiavetta, su hard disk. Ci vuole un bel po' di tempo. No, sì, qualche programma, ma tutta roba che non uso più. Qualche documento di testo. Tutta roba con dati fregati, quelle cose lì sono. Vediamo cosa si può salvare, dai. Ma non tutto è più di interesse ormai. Mi è bastata una volta a me. Bene, bene, bene. Ehi, sì, quel computer è come una macchina del tempo. Tu quando sei davanti a quel computer ti trovi proiettato indietro nel tempo fino al 2004. Anzi, ti dirò che già nel 2004 era già lì per essere obsoleto il floppy disk piccolo. Già da allora molti non lo chiedevano nemmeno più. Guardate che non ce l'avevamo neanche quelli che ci abbiamo buttato. Floppy disk, voglia. Due mega massimo, proprio i più moderni di contenuto. La più disgraziata della chiavetta, quelle che neanche trovi più, avevano un giga. Ma lascia perdere, lampada di tutto, è tempo perso, il tempo è denaro, quindi io tra poco basta stare a questo impiegato, mi sto arrabattando da una cosa che neanche uso. Ehi, ehi, ehi, ehi, peggio erano i floppy grandi, quelli, quella specie di, c'erano quelli più grandi di quello da 3.5, come si chiamavano, ma come li ricordo. Sai che cosa avevano tentato di fare? Siccome era Portobello avevo trovato quei floppy là, no? Quelli più grandi del normale floppy, volevo piazzarlo all'epoca sul computer, ma poi non funzionava nemmeno sul 98, su XP non funzionavano nemmeno quei floppy là. Credo di averli tenuti i floppy come museo, i floppy verdi della Wehrmacht, come museo proprio ce li ho, almeno credo, ma forse non ce li ho nemmeno più. Ma guarda, noi come soprammobili in certi posti abbiamo i cosi, i primi Apple, che si metteva dentro un dischetto da 5 qualcosa, che era un paratico. Lo schermo era a fosfori verdi, quindi puoi immaginare, quando ho iniziato io avevo il Commodore che c'erano le cassette per avviarlo, poi dovevi cambiarla, ci mettevi quei programmi eccetera, però con quello ho imparato a programmare in cubati e mi facevo anche dei programmini. Poi avevo comprato lì il coso, un'interfaccina per la telescrivente, allora era tutto più facile, adesso è tutta un'altra paio di mani, i linguaggi sono diversi, c'è il C, c'è il linguaggio macchina, c'è il linguaggio per la compilazione delle pagine web, quindi Java e così via, adesso è tutta un'altra cosa, quindi molto più completa, che devi sempre stare lì a studiare, una dottura di palla infinita. Ma tu te li ricordi Gianfranco? Beh, sicuramente sì. All'inizio degli anni 80, c'era stato l'80, l'81, forse l'82, quei computer chiamati INSAI 8080, che per farlo partire ci voleva un floppy grande quanto una pizza. No, io mi ricordo invece proprio le pizze, quelle che si usavano in sala macchine, che erano tre cose grandi, quelle che vedi in certi film vecchi che girano ad alta velocità, no? Facciamo un rumore, più erano sottoposte a stress e più giravano forte, ma sono cose, oramai sono dei corsi, ero anche ragazzino, quindi addirittura su certi c'erano le schede di cartone, quindi cosa vecchissima. Forse magari qualcosa avrà conosciuto Natalino. Natalino te le ricordi quelle, gli laboratori, allora si chiamavano laboratori con le pizze, e c'era quello in camice bianco che le metteva con le testine e tutto, tipo come se fossi un filiottomi, un super 8, però erano enormi, grandi e pesanti. Sì, me le ricordo quelle bobine che giravano. Mi ricordo anche delle schede perforate in cartone. No, questo INSAI usava, forse erano quelli che avevo io, non so se siano 5 pollici i dischi, INSAI 88, roba americana, quella che è comparso nel film War Games, giochi di guerra, War Games, giochi di guerra, ci vedeva proprio quel computer là, robaccia, però per l'epoca era attuale, capito? Tra 30 anni diranno robaccia di questi computer attuali di adesso, diciamo, che schifo di roba che usavano. Beh, io all'epoca usavo il modem A33K, immaginate, si accendeva otto le lucette e faceva ridere, collegato a seriale perché due USB neanche esisteva, allora c'erano gli attacchi CI, quelli grandi, enormi, le cose qua, comunque funzionavano, erano anche fatti bene le macchine perché duravano, tutto lì, riprendi Natali, dai, che se no poi fammi fare un cabacchiacco, già volevo fare per lavoro, poi me lo ritrovo anche in hobby. No, ma io se si sente sentiamo proprio a portare il cane, sono già meno 25. dopo. A dopo. A dopo. Eia, Natalie, caro Natalino, e tu ti ricordi quelle macchine fotografiche che mettevo nel tuo Fila 3-5? C'erano le macchine fotografiche anche con ottiche più o meno discrete, usavano in proprio da 3-5, c'erano roba di 2-3 foto, oppure a bassa qualità ce ne stavano qualcosa di più anche, orrori medievali insomma. E vabbè, comunque vai, vi devo lasciare, devo ritornare, secondo round, a domani ci sentiamo, ormai è tardi, ciao. Ciao, ci sentiamo. Però non mi ha risposto. No, quelle macchine fotografiche che stai dicendo tu non me le ricordo. Quelle che c'era il Zuppi. Dimmi. Eia, il Zuppi. Infatti ho detto, boh, beh, quello non c'era altro. Guarda, se trovo una foto te la mando su WhatsApp per farti vedere com'era fatta davanti e dietro. Ma era una foto proprio tipo 640x480, forse anche più piccola. Le ottiche erano discrete, quindi venivano anche belle foto, però piccole proprio in pixel. Va bene, ciao a tutti, ciao Gianfra. Vado a zuffarmi con la macchina. Ciao. Buon divertimento. No, le ottiche di una volta erano quelle serie, tutte quante Zeiss, quindi tanto di cappello. Se le fanno adesso vanno in rovina. Allora la Germania dell'Est, la Russia anche, come ottiche, era praticamente intoccabile. Le Zeiss, già lo credo, quelle ottiche lì sì che erano ottiche. Infatti già le stanno vendendo anche adesso, quei bambini con i russi, con questo tipo di ottiche. In Italia si andava molto molto bene come ottiche, ma in campo scientifico soprattutto era la Galileo, la famosa Galileo, che faceva lenti per strumentazione scientifica. Oh signore! Potrebbe di più assemblarlo. Gira, mi ordino quello lì. Oh, Natalie, facciamo l'ordine doppio allora. Come l'ordine doppio? È capace pure che mandi al diavolo la moto e mi rifaccia il computer. Se mi ordino quello lì, ti do questo. No, io lo voglio nuovo, o nuovo o niente. Ma guarda che questo sta funzionando bene. No, lo sai, come baracchini, o nuovo o niente, usato niente, mi dispiace. Faccia così, cosa vuoi che ti dica? Poi magari nella disca trovo archiviate porno, zozzerie, e che ne so io. Anche se l'ho formato e magari rimane qualche traccia, qualche programmi per recuperare i dati pseudo cancellati. Vai, che se te lo do senza nessun dato. Te lo faccio a nuovo. Oi, ma come ci siamo? Ciao, non riprendo, ciao, buona serata. E adesso che passano i dolci, ce ne stai andando? Perché passano i dolci? Adesso passano i dolci e tu ce ne stai già andando. E che dolci sono? Dolci, il dolce passa, adesso. Questi pezzi, ma sembrano allettanti comunque, Windows 10, certo che sarà uno shock terrificante passare da XP a Windows 10, deve essere uno shock terrificante. Ti dico, mi è stato uno shock per me, che non te ne dico nulla. C'avevo Windows 7 io e ce l'ho un altro Windows 7 perché ho due dischi dentro, però mi sto usando il Windows 10. Ma sai, c'è tutte le impostazioni, piccole impostazioni, faccio col 10, devo rimparare tutto da capo. Se voglio controllare bene impostazioni varie, oppure faccio come gli utonti, accendono e navigano, gli utonti, capito? Che non sanno nemmeno cancellare i file temporanei. Figurati. Comunque non è difficile, dai. È come l'XP, non è difficile. Tutti sull'icone si apre, molto ci vuole. Vabbè, fin lì. Ah, mi ricordo una cosa, che in XP c'erano varie modalità, no? Potevo lavorare o con quelle fesserie grafiche tipo l'ombra del mouse, la semitrasparenza delle finestre o cosa era, io tutto, avevo tolto tutto, avevo scelto imposta al computer per le massime prestazioni, avevo tolto tutte quelle fesserie, rifiniture grafiche tipo l'ombra del mouse, semitrasparenza delle cose, non le volevo di quelle cose, tutte tolte. E così farei anche con i 10. Mi tolgo tutte quelle menate grafiche, tutta quella cosa scenica che non serve a niente. Va. Faccia lei. C'è un computer efficiente, non mi interessa se fanno vedere le animazioni, le menate a schermo, le... Vabbè, già capito. Vabbè, ciao, basta, ciao, ciao. Basta, ciao. E comunque il Windows 10 non vive di quelle cose, lo sai di cosa vive il Windows 10? Vive di rete, deve avere la DSL almeno minimo a 4 mega. E lui vive di quello, tu vai dalla DSL e lui è felice con te. Ah, io ho 8 mega, tendente ai 10 anche. E allora è felice e contento, l'importante è che non ci sia il sottoaggiornamento di tutto il sistema, perché in realtà Windows 10 è un insieme di sistemi operativi che variano di continuo, capito? Sono i pacchetti che sono giga, quindi capita anche di stare un paio d'ore lì a scaricare e poi l'installazione sono dolori anche quella. E ogni tanto ne c'è uno, aggiornamento, una versione, uno, che ne so, punto 6, eccetera. Sono pesanti. Beh, d'altronde gli aggiornamenti, soprattutto sulla sicurezza, anche vanno fatti, no? Beh sì, poi c'è il vantaggio che c'è un antivirus integrato. Fino adesso ho visto che funziona bene, abbastanza bene. Quindi, niente. Certo, tutti i dati sono noti, È un po' come i telefonini che puoi sapere tutto di tutti, perché la privacy te lo chiedono, attenzione, e poi se dici sì, se pregato. E tanto non puoi andare avanti, se non accetti le condizioni, le cose sulla privacy, non ti fanno andare avanti. Per carità, è una specie di contro-privacy. Capito, come la storia del Ministero della Guerra di Orwell, no? O Ministero della Pace. Praticamente in questa società futuristica il Ministero della Pace si occupava della guerra. Cioè il termine era un po' il contrario, capito? Va bene. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ma lì anche io ti devo lasciare perché mi è scappato l'orario con questo impiatto che c'è davanti. Adesso lo capigheggio, non avendo altezza, non lo so se ti. Ci sentiamo, grazie per questo, buona serata, buona cena. Altrettanto, alle prossime. Ciao.